Nino Fumaretto scrive le canzoni, Elia Billoni le canta, ma le interviste chi le fa? Lo chiediamo fa, direttamente a Dino, visto che è in collegamento con noi. Ciao Dino. Ciao, sono Elia. Ecco, mi hai già mandato in crisi. Chi le fa le interviste? Sempre io, sempre Elia. Dino non fa nulla. Dino non fa nulla? No, non fa nulla, fa la scrittura, scrive, okay, le canzoni, ma non si espone. Io sono, okay, io sono quello che fa, che cerca di concretizzare le cose, insomma, che scrive. Ok, la luce. Quindi abbiamo... noi oggi parliamo con Elia. Sì, sì, ma sempre, Sempre. Okay, va bene. Sì. Allora, ti chiediamo come stai? Ma dai, bene, sto bene. E ti vogliamo chiedere se sei carico per l'uscita del disco Come, insomma, per l'inizio del tour, che ora appunto pian piano raccontiamo bene il tutto. Scusatemi, è andato via un attimo, ho pensato un attimo che è andata via la linea. Ti chiedevo se, sì, se sei carico per l'uscita del disco Coma, insomma per l'inizio del tour, che sappiamo partire da Bologna. Allora, sono stanco morto, però sono anche, so che sarò carico, in questo momento no, sono proprio stanco morto, però so che sarò carichissimo e il concerto è molto potente, è molto cattivo anche, insomma, okay, è bello tosto. Quindi sappiamo un po' cosa aspettarci, sentendo questo. Sì. E io sono curiosa di chiederti una cosa, ho letto nella tua biografia che scrivi Fumaretto è in coma e nel coma distorsioni e visioni, cosa significa? Significa che esattamente quello che, cioè, cosa vuoi sapere, un significato... Sì, cosa rappresenta per te questa frase, che penso abbia appunto un significato? Un significato, allora non è in coma letteralmente, è in un coma, se vogliamo, esistenziale, cioè è un po' di qua ed è un po' di là, e quindi è un momento di stasi, e infatti, ma pure io, e quindi non sappiamo bene, infatti questo album raccoglie degli scarti, sono... tutti degli scarti, sono alla fine le ultime canzoni che sono rimaste, perché Nino Fumaretto non scrive più da un po' di tempo, quindi io ho raccolto tutti i suoi scarti e sono molto contento che stia andando, comunque stia, abbia una buona, ottenendo dei buoni riscontri, perché si tratta di scarti, okay. Quindi sono contento, però sono contento, però dopo questo album, se Fumaretto non scrive più, se non si sveglia dal coma, ecco, okay, non avrò più materiale. Ho capito. Perché ho davvero raschiato il fondo del barile. Ah. Quindi non so se ti ho risposto, se ho un po' descritto com'è. Beh, direi che sì, hai rappresentato bene cosa rappresenta per te il coma. In questo album, nello specifico, in questo progetto, hai collaborato con Io Sono un Cane. Com'è stato lavorarci insieme? Beh, ci avevo già lavorato. Come già avevo lavorato anche con gli altri coproduttori artistici, che sono Rocco Marchi e Francesca Baccolini, per Sono Invecchiato di Colpo, anche se lì avevano fatto solo il missaggio, mentre Sono un Cane avevo fatto insieme, arrangiato insieme la title track, scusate la pronuncia. È meglio della mia sicuramente. Sì, e poi con Io Sono un Cane e con Rocco Marchi, Francesca Baccolini, sempre avevo fatto quell'EP sperimentale che in pochi stampati, in pochissime copie, che si chiamava Sotto Assedio. Quindi diciamo che ci conosciamo un po', sì, già siamo amici, ci conosciamo da tempo anche, però anche già da un punto di vista strettamente musicale, insomma, anche di collaborazione, quindi già ci conosciamo. Questo è stato un discorso più complesso, più grosso, perché eravamo in cinque ad arrangiare i brani, e quindi... è stato anche impegnativo, perché immagino, cinque teste sono tante. Non cinque turnisti, cinque persone che ognuno ha le sue idee. Cinque menti tutti, che... cinque menti diaboliche, però però che confluivano comunque con un unico scopo, insomma, cioè concretizzare, dare forma il più possibile colorata, cioè più che colorato, con tante sfumature di grigio o di nero o di rosso, forse anche, ecco, al mondo di Fumaretto. e alla fine eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Chiaramente ci sono stati anche dei momenti di discussione, ma sempre immaginiamo sempre fecondi, non siamo mai venuti alle mani comunque. Ok, bene. E ricordando Io sono un cane sarà appunto con te sul palco. Ti vogliamo chiedere, ma il palco per te cosa rappresenta? I live, avere le persone che cantano, cosa rappresenta per te? No, arrivare alle persone con gli accendini, quello non ci sono ancora arrivato, però non credo che ci arriverò. E non cantano quasi, cioè, ma sì, può succedere, ma non è che, insomma, non faccio canzoni da stadio, quindi è un po' difficile avere questa dimensione. Rappresenta, io suono da un sacco di tempo, prima era molto, sempre stato, non saprei dire cosa rappresenta, mi esprimo così, è l'unica cosa che so fare probabilmente. E quindi rappresenta un modo di esprimere se stessi. Vabbè, è una bella definizione, che rappresenta un modo di esprimersi. Sì, e anche di mettersi in discussione, comunque di mettersi in gioco e a volte anche auto mettersi i bastoni fra le ruote anche un pochino. Mi piace un pochino. Mettersi alla prova. Sì. E quali sono i tuoi eroi musicali? Prendi ispirazioni da qualcuno? Ma io, sai, non scrivo, è di non fumare. È difficile però, fare l'intervista a due personalità, è complicato. Però diciamo che abbiamo gli stessi gusti, diciamo che ci piace moltissimo il Neil Young, ma quello più storto, più malato, più spiazzante, e ci piacciono i This It, che sono un gruppo indefinibile, per questo ci piace. Ce ne sono vari, insomma, ecco. Adesso di cose attualissime non mi vengono in mente, però. Vabbè, però diciamo che hai risposto. Vuoi mandare, non so, fare un saluto ai tuoi fan che ti stanno ascoltando e che, insomma, li invitiamo alla tua data al Locomotive il 7 marzo? Sì, voglio dirgli che lo so che la tentazione di restare in casa è forte, io li capisco perfettamente, perché io anche io stesso non uscirei mai, e soprattutto i fan di Fumaretto sono come Fumaretto, quindi non escono mai neanche a vedere i concerti di Fumaretto, ma fate uno sforzo e venite a vedere questo concerto, perché è molto bello, ne vale la pena, sarà sorprendente.